in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa. Oggi quasi tutti i giornali aprono su questa svolta che davvero si può definire epocale, perché finisce un'epoca e ne inizia, speriamo, un'altra, che è quella della fine delle sanzioni imposte all'Iran. È il titolo del Sole 24 Ore, scatta appunto la fine delle sanzioni, Teheran e Washington liberano i prigionieri in uno scambio che davvero, e qualche giornale l'ha fatto, ha qualche cosa di romanzesco, un po' come quello che viene raccontato nel Ponte delle Spie, questi scambi appunto di qui vengono definiti prigionieri, ma in realtà alcuni di loro sono sicuramente negli anni erano stati accusati di spionaggio. Il tema è anche quello di delle opportunità economiche che si aprono ora per tutti i paesi e anche per l'Italia. 3 miliardi in più di export, spiega il Sole 24 Ore. Due le analisi, uno di Alberto Negri, cade un muro e i nemici diventano quasi amici, e poi una di Guido Rossi, l'ottimismo di Obama e il declino dell'America, perché questa della fine delle sanzioni all'Iran è una delle grandi vittorie, o comunque naturalmente lui ne parla così, dell'amministrazione, della seconda amministrazione Obama. Vi segnalo dalla prima pagina del Sole 24 Ore, come ogni domenica, la lettera al risparmiatore di Vittorio Carlini. Questa settimana il titolo quotato, scelto e analizzato proprio al microscopio è quello della Mar, che è un colosso della ristorazione. Marcia in più dai singoli ristoratori, focus sulla gestione dei crediti ai clienti. E poi l'intervento dell'arcivescovo di Chietivasso, Bruno Forte, su quello che oggi farà Papa Francesco, cioè visiterà la sinagoga di Roma. Il titolo dell'intervento, quel legame che unisce ebrei e cristiani. Un'analisi molto interessante sul prezzo del petrolio, che sapete sembra inarrestabile al ribasso, di Moira Longo. Se il crollo del petrolio ora frena la ripresa, inizia in copertina e poi lo trovate a pagina 2 del Sole 24 Ore. Il Corriere della Sera, la fine delle sanzioni all'Iran e la foto di copertina, nella foto di copertina compare anche Federica Mogherini, che è, diciamo, il ministro degli esteri dell'Unione Europea. C'è stato questo vertice a Vienna dove è stata ufficializzata, firmata questa intesa sul nucleare, che appunto sancisce la fine delle sanzioni economiche all'Iran. E poi è subito seguito, come abbiamo visto anche sul Sole, questo scambio di detenuti. Molto interessante, dalla prima pagina del Corriere della Sera, poi lo vedremo all'interno, il richiamo a questo studio sui migranti. In Italia gli uomini sono 9 su 10, quali possono essere i rischi di un'immigrazione che è appunto quasi unicamente maschile. La Repubblica, anche in questo caso la foto è di Vienna, però anziché vedere i leader in primo piano, in questo caso è una foto molto curiosa, è una porta chiusa al di là della quale però si vedono appunto i leader del mondo, quasi tutti uomini, a proposito di uomini, che alcuni sono sorridenti, altri meno, che firmano questo storico accordo. L'Iran torna nel mondo, embargo finito, scambio di prigionieri tra Teheran e USA. Il commento è di Roberto Toscano, gli ultimi nemici del disgelo. Anche in questo caso un commento, questo del priore di Bose, Enzo Bianchi, sulla visita che farà oggi Papa Francesco alla sinagoga di Roma. Ebrei e cristiani, i fratelli diversi. E poi anche un richiamo a un interessante articolo che c'è all'interno su questa proposta per un nuovo calendario della Pasqua che unifichi la data per tutti i fedeli. Anche gli anglicani appoggiano la proposta. Ma il titolo in realtà vero di Repubblica, accanto alla fotonotizia sull'accordo di Vienna, è dedicato all'assenteismo. Ecco il piano antifurbetti. Sapete il proclama di Renzi degli ultimi giorni, chi timbra il cartellino e poi non va a lavorare, o comunque chi fa queste palesi frodi sul lavoro verrà licenziato in 48 ore. E allora Repubblica spiega, stretta della Madia, il ministro per la funzione pubblica, sugli statali. Chi truffa va a casa subito e saranno puniti anche i dirigenti che li proteggono. Anche il Messaggero titola sull'Iran, affari con l'Iran, cade il muro, all'interno appunto un'analisi di come questo storico accordo offre grandi opportunità a tanti paesi, tra i quali l'Italia. Richiamato in prima pagina un forum che c'è stato al Messaggero con Carlo Messina, che è consigliere delegato di Intesa San Paolo, dove si sono toccati tantissimi temi. La cosa interessante, per cercare sempre qualche segnale di ottimismo anche in questo 2016 iniziato un po' in salita, sappiamo tutte l'andamento delle borse così negativo nelle prime settimane dell'anno, ecco, cercando appunto segnali positivi ma confortati dai numeri, l'Italia sta ripartendo, sarà la sorpresa dell'Europa. La svolta viene dai consumi, secondo appunto il banchiere di Intesa San Paolo. Vi segnalo anche che Il Messaggero è l'unico grande giornale, puoi vedere lo fa anche Il Manifesto, ma tra i grandi giornali è l'unico che mette in prima pagina l'attentato a Ouagadougou, la capitale del Burkina Faso. Il bilancio di questo attentato in uno degli alberghi più importanti della città è di 29 morti, 3 francesi, strage di Al-Qaeda. E appunto Al-Qaeda che rialza la testa in Africa, avendo perso terreno a favore dell'ISIS in altre zone, e la prima rivendicazione è una vendetta contro la Francia. La Stampa ha un titolo diverso, sceglie di titolare sull'Austria che ha sospeso Schengen come trattato che regola la libera circolazione delle merci, dei capitali e soprattutto delle persone all'interno dell'Unione Europea. Il cancelliere austriaco Faymann ha detto: l'Europa non riesce a garantire i suoi confini esterni e ancora una volta siamo nel mirino noi per la nostra incapacità, di questo ci accusano, lo hanno fatto i tedeschi, ora lo fanno gli austriaci, di mancate identificazioni. Richiamato in prima pagina anche due interventi sulla visita in sinagoga di Papa Francesco, uno di Karl Walter Kasper, ebrei e cristiani si rinsaldano un rapporto speciale, e poi uno di Gabriel Levi, un incontro fra uomini nel rispetto delle differenze. Ma la fotonotizia anche in questo caso è dedicata all'Iran, in questo caso è la foto di una giovane iraniana, il titolo: il mondo cancella le sanzioni all'Iran, e il commento di Stefanini: comincia una delicata partita strategica. L'Avvenire ha un titolo ancora diverso, perché da una parte c'è, a proposito di porte aperte in giro per il mondo in occasione del giubileo della misericordia, di cui avete sentito parlare anche in Oltretevere, è aperta anche una porta santa a Lampedusa, speranza per i migranti. Oggi a Roma giubileo con la croce dei barconi. Ma il titolo principale è dedicato allo scontro in atto, perché di questo si tratta, tra Matteo Renzi e non tanto l'Europa, ma il presidente della Commissione europea, Juncker. Il titolo dell'Avvenire: sbanco d'Europa, ecco che cosa c'è in gioco nella partita con la Commissione di Bruxelles, il rischio svalutazione dei BTP acquistati dai nostri istituti. Ci sarebbe Berlino quindi dietro lo scontro con l'Italia sul credito. E poi c'è questa citazione di Renzi che appunto ieri ha detto: non ci facciamo telecomandare dall'Unione Europea. Anche l'Avvenire mette in prima pagina l'attentato in Burkina Faso, definendolo una vendetta antifrancese. L'Unità ha una specie di pensiero laterale, nel senso che nella copertina viene nominato Juncker, viene nominata l'Europa, ma non per lo scontro, anche abbastanza grave da un certo punto di vista a livello istituzionale, no, per le questioni culturali, perché ieri, sapete, è stata riaperta la Reggia di Caserta, sicuramente un traguardo importante nella valorizzazione del nostro patrimonio culturale, ma appunto il titolo dell'Unità è, come dire, Juncker, questa è l'Europa, con una grande foto della Reggia di Caserta, l'Italia della cultura, della storia, delle bellezze, delle idee, di questo ha bisogno l'Unione Europea. Basta vedere le cose da una angolazione diversa, anche se, ripeto, mettere Juncker e Europa nella stessa frase oggi, uno si aspetta di parlare di altre cose, però tant'è. Le due pagine, pagina 2 e pagina 3, poi sono dedicate proprio a questo grande obiettivo raggiunto della riapertura della Reggia di Caserta. La copertina del Fatto Quotidiano torna sulla vicenda di Banca Etruria, ancora definirla poco chiara non rende l'idea. Ora spuntano nuove accuse per il vicepresidente di Banca Etruria, che è anche, come sappiamo, il padre di Maria Elena Boschi, ministro per le riforme costituzionali, che è stato difeso in Parlamento strenuamente quando si votò la mozione di fiducia alla stessa Boschi, perché la si accusava di avere un conflitto di interessi. Conflitto di interessi a parte, lei sostanzialmente giurò sull'onestà dei comportamenti del padre. Ora su questi comportamenti chiaramente ci sono molte ombre, da qui il titolo del Fatto Quotidiano: il piano Boschi Carboni giunse al CDA ma lo bloccò Banca Italia. Di cosa si tratta? Di un piano, appunto, che misero, secondo la ricostruzione del Fatto, messo a punto dal vicepresidente di Banca Etruria Boschi e il faccendiere Carboni, vecchia conoscenza di tutte le cronache giudiziarie italiane. Vennero fatti alcuni nomi per il nuovo CDA di Banca Etruria che poi Banca Italia bocciò. La prima pagina di Libero, anche in questo caso dedicata alla vicenda di Banca Etruria, parla l'uomo dei misteri, i miei favori a Boschi. In questo caso l'uomo dei misteri è Valeriano Mureddu, indagato per associazione segreta. Sì, ho fatto affari con Tiziano Renzi, che è il padre di Matteo Renzi, e conosco bene il papà del ministro Maria Elena. Era disperato, così ho chiesto a Flavio Carboni di aiutarlo. Ma vi segnalo poi un articolo di Antonio Socci, il titolo era questo: Bergoglio oggi in sinagoga per trovare la voce contro Islam e invasione. Ho detto che strano, per una volta Antonio Socci parla bene di Papa Bergoglio, perché sapete che questo autorevole, definiamolo così, esponente di Comunione e Liberazione, non perde occasione, ma veramente non perde occasione per attaccare Papa Bergoglio. E infatti mi ero illusa, perché poi ne bastano le prime righe del suo intervento per capire che è una specie di attacco velato a Bergoglio. Ve le leggo. Forse voleva essere il primo Papa a entrare in un tempio ebraico dagli anni di San Pietro, ma ben prima di Francesco, che oggi incontrerà la comunità ebraica romana, Giovanni Paolo II visitò il Tempio Maggiore di Roma. E quindi, e poi comunque l'articolo continua a pagina 15 e vi dico, al di là del dare questa notizia, è l'ennesima critica a Papa Francesco. Non va bene neanche questa scelta di andare in sinagoga, perché sospetta Antonio Socci, in realtà avrebbe voluto essere il primo a farlo. Ci fermiamo un attimo per una pausa, ci ritroviamo subito dopo. In primo piano. Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli. Eravamo sulle pagine dei giornali, prime pagine. Ci mancava Il Giornale, che titola I pozzi avvelenati di Renzi, e sarebbero questi tre pozzi avvelenati: Etruria, Europa e i sondaggi. E sull'Etruria abbiamo visto queste novità sui contatti tra il padre di Maria Elena Boschi, ministro per le riforme nonché vicepresidente di Banca Etruria, e la massoneria. Berlusconi riparte da Milano e torna sul predellino, c'è un accenno anche a questo con una foto di Berlusconi ieri appunto a Milano, che ha tenuto si è incontrato con alcuni sostenitori, ribadendo che se lui, come sembra intenzionato a fare, tornerà prepotentemente in campo, Forza Italia potrà rinascere. E vi dicevo dell'attentato in Burkina Faso, che solo il Manifesto proprio mette in apertura di giornale: terrore in sequel, almeno 26 morti, sappiamo che in realtà sono 29, e più di 50 feriti di diverse nazionalità nella strage dell'hotel Splendid di Ouagadougou, capitale del Burkina Faso, un attacco fotocopia di quello di 2 mesi fa a Bamako, la rivendicazione di Al-Qaeda nel Maghreb islamico, nel mirino la presenza francese nella regione del Sahel. In prima pagina naturalmente anche la fine delle sanzioni in Iran per via della firma sull'accordo sul nucleare, e poi una fotonotizia della Tsai Ing-wen, che è la prima presidente donna di Taiwan. Vi segnalo anche la prima pagina della Gazzetta: oggi ci saranno tante altre partite, ieri ci sono stati alcuni anticipi, tra cui quello dell'Inter che ha pareggiato con l'Atalanta, e quindi la Gazzetta dello Sport titola: c'è solo Andanovic, il portiere, che ferma l'Atalanta e salva l'Inter più brutta. E poi un accenno invece a Higuain, che il calciatore del Napoli, che ieri ha fatto il suo 20° gol, perché solo ieri ne ha fatti 2. Passiamo alle pagine interne dei giornali, torniamo sul Sole 24 Ore. Vi dicevo l'approfondimento economico sulle conseguenze economiche di della fine delle sanzioni. Laura Cavestri, a pagina 3 del Sole, ci racconta: l'Italia punta a 3 miliardi in più di export entro il 2018, quindi anche in tempi abbastanza brevi. Sono molti i settori in cui Italia e Iran potrebbero avere maggiori rapporti. Dalle pagine interne del Sole 24 Ore vi segnalo anche, lo faccio dal Sole perché abbiamo tanto spazio quanto gli altri giornali, la cronaca delle sfilate di Milano. Dico sempre che a volte si pensa che le sfilate siano un gioco, le sfilate sono la punta dell'iceberg di un grande sistema fatto da 60.000 imprese e che fattura 60 miliardi di euro, una delle colonne del manifatturiero italiano, quindi anche magari chi non fosse particolarmente interessato alle tendenze sappia appunto che le sfilate sono la punta dell'iceberg. Sul Sole 24 Ore trovate la cronaca delle sfilate dello stile fatta da Angelo Flaccavento, che in questo è specializzato. Il titolo: da Zegna, ricami e rigore, Dolce Gabbana Western. Ieri è stato il primo giorno, oggi si continua e si andrà avanti fino a martedì. E poi un'analisi economica di Paola Bottelli: il fast fashion e i falsi insidiano tutta la filiera, uno dei tanti problemi appunto della filiera della moda, non soltanto italiana, però ricordo sempre l'Italia è l'unico paese al mondo che ha una filiera del tessile abbigliamento intatta, cioè noi facciamo tutto dalla lavorazione delle materie prime alla vendita, alla creazione di grandi prodotti con i grandi marchi. Vi dicevo dal Corriere della Sera l'approfondimento sulla composizione dei migranti che arrivano in Europa, uomini soli verso l'Europa, e Sara Gandolfi ci racconta come tra i migranti in arrivo le donne sono solo il 27% e l'Italia è in cima alla lista, perché da noi il 90% dei richiedenti asilo è di sesso maschile. Sempre dal Corriere della Sera, alla domenica c'è una sezione dedicata alla salute, visto che un po' di neve è arrivata, tanti si preparano o forse sono già andati a sciare, e tanti rispetto a un po' di anni fa usano lo snowboard invece che gli sci. E allora a pagina 49, scusate, vi segnalo l'articolo di Antonella Sparvoli: come ci si prepara per lo snowboard. Pedane vibranti e reti elastiche allenano le articolazioni alle variazioni di carico. E mi ricordo che quando ero più giovane si parlava tanto di ginnastica prescistica, poi i più pigri tra noi naturalmente, o meno i meno metodici, non la facevano. In realtà, naturalmente, come qualsiasi preparazione a un'attività sportiva, serve a prevenire gli infortuni soprattutto. A proposito dell'attentato in Burkina Faso, su Repubblica trovate a pagina 9 due articoli interessanti. Uno di Renzo Guolo, che spiega quei jihadisti venuti dall'Algeria alla conquista dell'Africa. Cacciati verso sud dalla repressione militare, hanno stretto alleanze con le tribù locali. Oggi si rischia un patto con i gruppi radicali della Libia e Boko Haram in Nigeria, quindi altre due organizzazioni, Boko Haram in particolare, jihadiste estremiste. E poi una bella curiosità di Laura Putti, che racconta un po' che cos'è Ouagadougou. Tra l'altro in Burkina Faso si sono tenute per la prima volta nel 2015 elezioni libere, quindi un paese che ha iniziato un percorso di autentica democrazia, e Ouagadougou in particolare è una città molto vivace, con anche un festival del cinema. E quindi Laura Putti appunto ci racconta Movida, cultura e musica, la capitale del cinema nero, che poi viene familiarmente definita Ouaga, perché insomma il nome in effetti è un po' lungo, Ouagadougou. Sempre dalla Repubblica, forse avrete sentito il caso di cronaca che viene dalla Francia e di questi giorni, con le persone che stavano sperimentando una cura farmacologica, che sono morte perché questi farmaci erano più letali, che avevano più vantaggi evidentemente che vantaggi. E Elena Dusi quindi prende questo spunto anche per raccontare noi cavie per soldi, così i test sui farmaci diventano un lavoro. Dalla Francia agli Stati Uniti, le voci di chi partecipa ai trial, cioè appunto le sperimentazioni sulle persone di questi farmaci. Cioè, una volta che un farmaco è stato approvato in linea di massima, poi va testato sulle persone. Ecco i trucchi che usiamo per guadagnare di più, quindi le zone d'ombra di questa pratica, che dovrebbe essere naturalmente a prova di, tranne il margine di errore che ci può essere, a prova di qualsiasi errore appunto, perché coinvolge la salute delle persone, però si scopre che in realtà ci possono essere appunto delle zone grigie anche molto gravi. Però poi c'è un'intervista al direttore dell'AIFA, l'Agenzia Italiana per il Farmaco, che dice che si chiama Luca Pani: ma la sperimentazione è l'unica via per avere medicinali innovativi, perché è chiaro che appunto per quanto si possano testare in laboratorio, poi ci vuole una fase di test sulle persone, sui pazienti. Sempre dalla Repubblica un divertente approfondimento di Paolo Griseri sul futuro, e in particolare sull'auto. L'auto senza pilota, ne basterà una sola per tutta la famiglia, circolerà il doppio. Una simulazione dei nostri spostamenti tra 25 anni, pensate, e con il car sharing avremo un veicolo al posto di 9. Vedremo, insomma, potremmo mettere in cassaforte questo articolo e vedere dove saremo tra 25 anni. Un altro approfondimento sugli scenari economici che si aprono in Iran dopo la fine delle sanzioni, lo trovate sul Messaggero. Dal greggio alle autostrade, l'oro per l'Italia, e Roberta Amoruso ci racconta come per esempio l'Eni sia in pole position in questo momento per appunto stringere accordi con l'Iran, ma fanno gola anche le infrastrutture e le coproduzioni per le regioni vicine, pronte anche le piccole e medie imprese del nostro paese. Poi vi dicevo il forum con Carlo Messina di Banca Intesa, intesa, lo trovate alle pagine 6 e 7 del Messaggero, che dà un po' questa, appunto, questo spunto di ottimismo. L'Italia potrebbe essere la grande sorpresa del 2016. Per il banchiere di Intesa San Paolo ci sono tutte le condizioni per una forte ripresa dei consumi e una svolta dell'economia. Dalle pagine intere della Stampa prosegue la bellissima serie di incontri del nostro Federico Taddia, che appunto gli ascoltatori di Radio 24 conoscono bene. Un viaggio nelle realtà artigianali italiane. Siamo già alla 14ª puntata, mi sembra ieri che abbiamo iniziato a parlarne, le eccellenze appunto artigianali in Italia. Questa volta Federico è andato a Murano, dove ci sono tantissime fornaci, naturalmente per la lavorazione del vetro. Quella che Federico ha visitato è la Fornace Seguso, che produce pezzi unici, pensate, da 23 generazioni, cioè 800 anni. E poi un caso di quelli un po' da mani sul volante: si parla spesso di una necessaria razionalizzazione degli scali italiani, e quella che la Stampa racconta è la storia dello scalo di Aosta. Conto salato in aeroporto, ogni passeggero costa 1000 euro. Pensate, nel 2015 ci sono stati 2000 arrivi in tutto nell'aeroporto di Aosta, 2 milioni di spese per i contribuenti. E poi c'è un'analisi di Francesco Spini che spiega come in realtà tutti i piccoli aeroporti siano in perdita, vince chi punta sul turismo. Naturalmente è una di quelle questioni dove bisogna valutare, si può anche ammettere, come in molti casi nei servizi pubblici, che lo Stato appunto intervenga per fornire un servizio, un aeroporto appunto, però bisogna vedere poi fino a che punto si può andare in perdita per fornire questo servizio, quando magari ci sono aeroporti non vicini ma neanche lontanissimi. Dall'Unità un interessante approfondimento che parte da un sondaggio della SVG sull'astensione. Il fenomeno è più elevato al sud e al nord-ovest ed è in crescita la percentuale dei non votanti del centro-sinistra. Il popolo dell'astensione, trovate questo approfondimento appunto alle pagine 8 e 9 dell'Unità, il record sarebbe nella classe media, e con un'intervista al politologo Piero Ignazzi, che dice: ci stiamo comunque avvicinando al dato europeo. Questo dato comunque triste sull'astensionismo, perché naturalmente vuol dire in generale disaffezione alla partecipazione alla vita pubblica e alla politica, naturalmente. Dall'Avvenire una cronaca di quello che ha detto ieri Francesco sul lavoro, intervenendo appunto sulle questioni del lavoro. Perché è intervenuto a un meeting del Movimento Cristiano dei Lavoratori. Tra le tante cose che ha detto, anche no alle raccomandazioni, educare a un nuovo umanesimo del lavoro e stop alla corruzione. Il lavoro quindi si conferma uno dei temi cari a Papa Francesco. Dalle pagine interne della Fatto Quotidiano, scusatemi, invece una bella intervista di quelle domenicali su due pagine, di Malcolm Pagani e Fabrizio Corallo a Isabella Rossellini. A proposito di raccomandazioni, il titolo intervista: che fatica essere figli di, dopo l'Italia ho pensato spesso di lasciare il cinema. Invece ora noi ci lasciamo un attimo per gli aggiornamenti sul traffico. In primo piano. Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli. Eccoci per l'ultima parte della rassegna, che dedichiamo ai supplementi culturali della domenica, iniziando naturalmente dal nostro, quello del Sole 24 Ore, la domenica appunto del Sole. E come sempre parto dal breviario di Gianfranco Ravasi, che oggi si intitola Gli specchi, e parte da una citazione dello scrittore francese Jules Renard, che è questa: si credeva la bella bionda del paese, va a Parigi, vede le belle ragazze della città, si guarda negli specchi dei negozi e si scopre meno bella. Torna al suo villaggio e dichiara: a Parigi ero meno bella che qui, ma credo che dipenda dagli specchi. Una ragazza bruttina, poi questo invece è un'altra citazione, va dal suo confessore: pecco di vanità e di orgoglio quando mi guardo la mattina nello specchio. E il sacerdote replica: non ti preoccupare, deve essere uno specchio deforme, cambialo. Una scenetta di un libretto di aforismi scritti da un sacerdote che fa il palo con quella che sopra abbiamo citato, da un testo tratto dal Journal di uno scrittore certamente più noto, il francese Jules Renard, che visse tra il 1864 e il 1910. La vanità è pronta a rasentare il ridicolo pur di massaggiare il proprio superego. Era ancora lo stesso autore ad affermare: c'è la falsa modestia, ma non c'è mai il falso orgoglio. Ecco perché è necessaria una buona dose di quel vaccino poco usato che è l'autoironia, come insegnava lo stesso Renard, che così smitizzava la sua qualità di scrittore. Ho male ai piedi, ci credo, a forza di scrivere. E questo era il breviario. Poi c'è la rubrica del nostro direttore, nostro di Radio 24, del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano, Memorandum, che oggi è dedicata a una delle librerie più belle di Milano, forse più belle d'Italia, che è la libreria Bocca. E Roberto Napoletano la racconta anche prendendo spunto da un libro che in realtà racconta la storia dell'intera galleria, la Galleria Vittorio Emanuele, un libro di Stefano Zuffi, Dalla storia al domani, un libro di Feltrinelli che è uscito da poco. La galleria, la libreria Bocca ha rischiato di chiudere, ma per ora resta aperta. È una libreria che vende quasi esclusivamente libri d'arte e quindi ha sofferto perché tutte le librerie indipendenti soffrono, ma anche perché comunque i libri d'arte sono libri molto costosi, quindi sono stati probabilmente anche colpiti dalla crisi. Ora però appunto resiste, ma così come è diventata anche un simbolo, potrebbe essere, deve resistere anche come simbolo della galleria. La galleria, che tra l'altro è stata di recente restaurata in un bel esempio non così diffuso in Italia di partnership pubblico-privato, perché due dei marchi della moda che hanno dei negozi in galleria, cioè Prada e Versace, e la stessa Feltrinelli, che ha un grande spazio in galleria, hanno contribuito al restauro appunto della galleria, ne aveva molto bisogno. E da qui appunto il memorandum di Roberto Napoletano, che cerca di mettere insieme tutte queste cose, cioè una libreria, una grande libreria come simbolo di cultura di una città e di un luogo, la galleria che viene definita il salotto di Milano, e poi anche questa idea di partnership pubblico-privato per salvaguardare il patrimonio culturale e architettonico di un paese. La copertina vera e propria, diciamo il titolo di copertina, è però dedicato a un libro, a un nuovo libro di uno studioso americano, e il titolo è Due neuroni per uno zero, un po' criptico. Che cosa racconta questo articolo? Che una nuova scoperta mostra cosa succede nel cervello quando percepiamo l'insieme vuoto. È visto sia come un numero tra gli altri numeri posti in una scala, sia come uno scarto tra nulla ed esistenza di qualcosa. E da qui insomma una serie di altre considerazioni. Poi bellissima recensione di Mauro Campus a un libro di Josef Czapi che si chiama Proust e Griazovec, conferenze clandestine. Era il titolo dell'articolo, della recensione, è Resistere con Proust, e racconta come le lezioni sulla recherche, sulla ricerca del tempo perduto, tenute da Josef Czapi, un ufficiale dell'esercito polacco nel campo sovietico in cui era internato, sono l'ultima lotta contro un annichilimento mentale e spirituale. E poi una bella recensione a una mostra di Gabriele Basidico, il grande fotografo scomparso nel 2013, che c'è in questo momento a Milano all'Unicredit Pavilion, Ascolto il tuo corpo, città e lo fotografo. Questo è il titolo della recensione di Fulvio Irace. L'Unicredit Pavilion di Milano ospita una personale del grande architetto e maestro dell'obiettivo, che prendeva di mira i contesti cittadini e dopo ore di posa scattava. E poi ancora un ricordo di David Bowie, morto all'inizio di questa settimana dopo una battaglia col cancro durata 18 mesi, un ricordo di Riccardo Piaggo, Starman senza polvere, compositore, cantante, mimo, pittore, giocò con la sessualità, la moda e la religione, e regalò brani eterni come Space Oddity, quindi veramente un artista eclettico, anche in questo caso per una volta possiamo usare questa parola a proposito. La lettura del Corriere della Sera, come sempre la copertina affidata a un artista, in questo caso è Luca Bertolo. E poi il primo pezzo, lo trovate a pagine 2 e 3, trovato molto interessante, l'ho scritto Federico Fubini, che si occupa sempre di temi economici, ma qui ci racconta una cosa molto curiosa: la compravendita degli economisti. Ogni anno a gennaio università, aziende, banche di tutto il mondo si riuniscono in una città degli Stati Uniti, e quest'anno è stato San Francisco, per reclutare migliaia di cervelli. In 72 ore ci si gioca tutto, un po' come il draft dell'NBA, insomma, si cercano i migliori cervelli economici. E poi, molto divertente, l'articolo di Francesco Piccolo, il mondo è complesso, troppo, do il benvenuto al semplificatore, quindi l'idea di trovare qualcuno che appunto ci risolvi i problemi, con una spigolatura di Maurizio Porro, che ricorda quella fantastica figura di Pulp Fiction che era Mr. Wolf, che appunto sono Mr. Wolf e risolvo problemi. Poi un approfondimento divertente di Giuseppe Antonelli su come cambia la grammatica della nostra lingua. Grammatica esci la regola, verbi intransitivi che diventano transitivi, preposizioni impazzite, inevitabile che l'italiano cambi, ma prima di arrendersi occorre resistere. Quindi anche qui difficile, la difficile arte del cambiamento, dell'accogliere il cambiamento senza magari stravolgere o soprattutto impoverire una lingua. La copertina della Domenica della Repubblica è invece affidata a Roberto Saviano, che prendendo un po' spunto dalla vicenda per certi versi grottesca di Sean Penn, che si addentra in Messico per intervistare El Chapo, il grande boss della droga, e magari poi mettere le basi per un film. Poi El Chapo è stato arrestato, quindi niente film. Il Roberto Saviano ci racconta I Padrini, da Al Capone a El Chapo, quando il boss fa spettacolo, e quindi anche un excursus un po' partendo dal fascino che purtroppo questi criminali esercitano, ma anche appunto testimoniato da quanti film hanno ispirato. Un bellissimo articolo di Gino Castaldo su Adele, la cantante inglese. Pensate, in solo 88 giorni il suo video di Hello è diventato il più visto nella storia del pop, forse, scrive Gino Castaldo, perché ha la voce più bella del mondo e forse anche qualcosa di più. Fenomenologia di Adele, che pensate ha solo 25 anni, ha già battuto tutti questi record. Per la serie Straparlando, le interviste della Domenica di Antonio Gnoli, questa volta la grandissima attrice Giulia Lazzarini, classe 1934, ma ancora bellissima, invecchiata benissimo. Giulia Lazzarini: è meglio essere un po' artisti, ma essere un po' più felici, un po' meno artisti, ma essere un po' più felici. Questo è il titolo dell'intervista. La guerra, l'esilio a Riccione, l'amore per il teatro, le occasioni perse, come quelle con Visconti. L'attrice musa di Strehler si racconta. Abbiamo parlato della Reggia di Caserta, ultima segnalazione che vi faccio sulla copertina di Macro, il supplemento culturale del Messaggero, appunto tutta la ricostruzione di questa Reggia che rinasce con la restituzione degli spazi occupati per 90 anni dall'Aeronautica, torna fruibile nella sua interezza la Versailles italiana. Era l'ultima segnalazione per oggi, un grazie a Peter Bescapè in regia e ancora una buona domenica da Giulia Crivelli.